Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il pallone per l'Algerino, si coordina Gulam per il cross, il stesso in area, Kayekon, rete, Kayekon, Napoli in vantaggio. Forse Conte ha aggiornato il fixing delle percentuali dopo il timbro di Callejon. Buongiorno a tutti, 800 24 00 24, numero verde, Franco Piantri, direttore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Timbro di Callejon sul certificato della Juventus, insomma, se avevate ancora qualche dubbio, se volevate per forza avere ancora qualche dubbio, da ieri non ce ne sono più. Conte parla di 50%, prima parlava di 50% prima di Napoli-Roma, un 50 che in contese vuol dire 95, dove in quel 5 stanno la volontà di perderlo apposta, il ritiro dal campionato, l'invasione delle locuste, un'indigestione collettiva e non lo so, qualche altra ipotesi di retroguardia. Pierluigi Pardo, ciao! 98%, 98, come direbbe Conte, 98, 99... Moggi come direbbe? Ma in pratica il campionato mi sembra chiuso, adesso bisogna concentrarsi sul mercato, sull'anno prossimo, in pratica. Senti, ma la domanda è, da qui al 18 maggio che famo? Che gli raccontiamo a questi? Cioè, duelli di retroguardia, va bene, secondo posto può essere al limite un confronto tra Roma e Napoli a distanza, la Roma ha perso in maniera tutta immeritata ieri. Tra l'altro in ogni resa c'è sempre un po' di dramma, avrai sentito le notizie che arrivano dalla stampa olandese, sì. Brutto guaio per Strootman, si parla di legamenti del ginocchio sinistro andati e uno stop lunghissimo, addirittura 9 mesi, questo però non confermato. Sì, non è confermato, anche perché poi ogni infortunio ha una sua storia, no? Un suo corso. Certo. Io credo che qualche mese in meno, insomma, giudicare la diagnosi per quella che è l'esperienza, 9 mesi mi sembrano tanti, però insomma sicuramente il campionato è finito, sicuramente non va al mondiale, quindi è una tragedia per lui, per l'Olanda, potrebbe essere un problema per la Roma, anche se poi io penso che la Roma abbia ancora la possibilità di arrivare seconda, ma questo a questo punto diventa il duello più interessante del campionato. No, la cosa molto triste è che questo campionato, che è chiuso dal punto di vista del primo posto, invece ci regala sempre dei temi extra calcio di cui parlare, fra polemiche varie, insomma. Sì. Sì, temi che sono secondo me un po' pretestuosi, in parte anche divertenti. Adesso ne parliamo con il nostro amico Crosetti, il signor Crosetti che sta per arrivare. Signor Crosetti. Invece, dimmi, insomma, altro tema di retroguardia, Fiorentina-Inter per il quarto posto con Parma e Verona a dare sfogo ai loro sogni, anche questo può essere uno di quei temi cui dovremmo aggrapparci per i prossimi 70 giorni. Secondo me l'Inter, se arriva, c'è un ascoltatore che mi scrive che l'Inter ad oggi ha avuto 28, dal 2009-2010, 28 rigori a favore, 35 contro, vuoi il commento? Boh, a me non viene niente da dire, che devo dire? 28 rigori a favore, 35, va bene, amen, ne prenderemo atto. Però se l'Inter arriva a quarta, secondo me fa un'ottima cosa, cioè fa una stagione eccellente, perché è più debole di Napoli, Roma, Juventus, ovviamente, ma a me piace anche meno della Fiorentina. Sì, sì, anche se la Fiorentina ha avuto, a proposito di infortuni, un conto amarissimo, no? Oddio, l'Inter ha avuto Icardi bloccato fra un motivo e l'altro per tutta la prima parte della stagione, però insomma la Fiorentina io credo che debba essere vista con la tara dei due infortuni pesantissimi di Gomez e Rossi. È come togliere, non lo so, Tevez e Llorente alla Juve. Sì, vale, certo, ma certo, certo. Quindi da questo punto di vista la Fiorentina secondo me merita grande rispetto, non deve diventare un alibi, ieri non mi è piaciuta, però insomma sicuramente vive una storia molto, molto particolare in questa stagione. Sì, una storia molto particolare in questa stagione è anche il Milan, che è in viaggio, è partito questa mattina, poi sentiremo anche Galliani, viaggio della speranza a Madrid, magari passando per i Pirenei francesi, laddove c'è l'Urde, perché secondo me è veramente dura per il Milan, e comunque è una stagione senza futuro immediato questa del Milan, è una stagione stranissima, secondo me l'altra sera a Udine il Milan non ha avuto una bella faccia e Seedorf comunque ha abbastanza regalato la partita con uno schieramento iniziale, dei cambi successivi abbastanza improponibili, ovviamente pensando a Madrid, però secondo me è davvero difficile per il Milan così trovare dei motivi per esistere in questa stagione. Sì, perché c'è sempre questa brutta sottovalutazione dell'Europa League che evidentemente quest'anno stiamo cominciando ad apprezzare un po', ma che ancora non molto. A me interessa molto. Ma viene vista come un elemento così un po' fastidioso, no? Il rapporto costi-benefici viene vista comunque come una competizione molto dispendiosa. Il Milan, secondo me, oggi dovrebbe essere concentrato per quanto riguarda quello che succede domani, che è la cosa più importante della stagione, non ci sono dubbi. Poi, se le cose, ci auguriamo di no, dovessero andare male, da domani notte deve buttarsi a testa bassa a cercare di prendere un posto in Europa League. Secondo me non, io la vivo così, perché è importante per il ranking, è importante per il mercato, è importante per la PIR internazionale di una squadra. Poi è ovvio, la Juve è vero, c'è stato un anno in cui ha vinto il campionato partendo l'anno prima dalla mancanza di Coppa Europea, ma è anche vero che l'anno prima è arrivata settima comunque, sì, non è che avesse vinto niente. Quindi non è che è una garanzia il fatto di non andare in Europa, non è che sia una garanzia del fatto che l'anno dopo fai benissimo, no? Sì. Ti toglie un po' di peso, sicuramente, ti toglie un po' di peso, ma ti leva secondo me anche delle opportunità. 800240024, ti piace la Fiorentina? Sì, intesa come piatto? Sì, mi piace molto. Io sono più pescista che carnivoro, però la Fiorentina c'è una chianina a Firenze eccezionale. Devo dire che una delle cose più belle, adesso può sembrare un pochino una ricostruzione di parte, una delle cose più belle del seguire la nazionale, cosa che io faccio raramente ma ogni tanto mi è capitato, sì, è che a Firenze si mangia in maniera straordinaria. È una cosa meravigliosa, e quindi insomma devo dire che c'è una dimensione fantastica, oltre alla città d'arte, ma c'è quella zona di Comerciano che è bellissima, queste colline pazzesche, queste grandi cene, questi litri di vino rosso. Stiamo facendo il gastronauta, Salutiamo il signor Paolini. Sì, il gastronauta. Allora facciamo così, andiamo avanti a fare il gastronauta. Mentre Sara scrive viva l'ironia e la capacità di prendersi in giro, e viva il tweet della Juve, e viva il calcio e il sano tifo divertente, folle, onesto, gastronauta dopo il traffico. Nella mia testa sono già concentrato a quello che deve essere l'anno prossimo, perché abbiamo, come mi è capitato di ricordare di recente, un appuntamento con la storia. Nessuna Juventus ha mai vinto 3 scudetti di fila se non quella del quinquennio, e quindi visto che davanti a me c'ho il mister, c'ho lo staff tecnico, c'ho la squadra tutta, io vi dico, io sono concentrato all'anno prossimo, perché dall'anno prossimo si iscrivono i nuovi palcoscenici e noi sappiamo che nel nostro destino c'è l'ambizione di vincere. Convocati. Dunque, benvenuti al gastronauta. Buona la Fiorentina pranzo, ci rivediamo tra 4 giorni per la cena. Tweet ufficiale della Juventus. La risposta di Montella. Questo è facile, va messo a pezzo di carne abbastanza alto su un mattone ardente con la legna ad ardere, e si cuoce a bistecca la Fiorentina al sangue, rigorosamente al sangue. Questa è la risposta di Montella, ma ce n'è una che arriva anche dalla rete dei tifosi viola, non è ufficiale ma a me piace molto. Va bene, dopo la Fiorentina, dopo i 4 salti in padella che avete beccato all'andata. Questa volta è proprio finita! Eh sì, è proprio finito tutto. Con questi fusili alla siciliana pronti in padella in 5 minuti, la mia vita è proprio cambiata. Ma che dici, domani? Non vi do cena? Chiara invece non cambia mai. 4 salti in padella Findus, gusto in 5 minuti per cambiare la vita da così a così. Sono in cima. Io e Pardo invitiamo volentieri a pranzo Maurizio Crosetti, che è un nostro carissimo amico, come sapete. Eccoci. Buongiorno, ma direi più che altro 4 salti in Montella, direi. Ah, però! Ah, versione Carra, versione Piccone. Trombette, e se poi posso dire tutta questa cosa. Non ti è piaciuta? Alla bistecca alla fiorentina, sì. Mi fa pensare, restando sempre a una specialità, questa volta non toscana ma piemontese, al carrello dei bolliti. Oh. Devo dire che ne ho visti parecchi da ieri a oggi. Cioè? Vabbè, dai. Cioè mi sembra che le battute vadano sempre bene, dipende poi anche dal contesto. Se tu sei un sito ufficiale, fai la battuta sulla Fiorentina, e allora se della Valle parla dei Gianduiotti, dei Grissini, non si finisce più. Ma so che è un tema caro a Pierluigi, perché lui è sempre molto sensibile ai prodotti locali della gastronomia. Sì. Io faccio questo lavoro essenzialmente per andare a cena dopo, questa è la sintesi, o a pranzo, in alcuni casi quando c'è la partita alle 12:30. Però no, io credo che... Nel merito, Pierti, cioè questa vicenda, ma io non... chi è che suona i bottoni? Chi è che schiaccia i bottoni? Pardo, sei tu? No. Chi è? Maurizio, sei tu che schiaccia i bottoni? Certo. Stai schiacciando dei bottoni a caso? Mi avete scoperto. Chi stai telefonando? No, io non riesco a schiacciare neanche i bottoni, quelli che per chiudermi la giacca, quindi assolutamente. No, non sono io il colpevole. No, dimmi, Pierluigi, qual è la tua posizione su questo tweet? Scusami. Come? Stavo cantando se telefonando. Vabbè, no. Stavo dicendo, la cosa del tweet a me, devo dire, non offende, non imbarazza, mi sembra una innocente battuta di mediamente divertente, che anzi ci riporta un po' allo spirito del gioco e della sfida sana fra atleti, uomini, società e tifosi. Quindi io non ci vedo niente di male. È chiaro che si inserisce in un clima dove tutto sembra provocazione. Cioè, per me la sostanza vera è questa. Il problema non esatto. È questo tweet. Questo tweet, in un mondo nel quale ci andiamo a fare una birra dopo la partita, veramente ci andiamo a mangiare una fiorentina insieme fra tifosi e avversari, perché abbiamo capito quello che è il senso del gioco, questo tweet qui è bellissimo e mi piace. E quindi io non starò certamente a colpevolizzarlo. Che succede veramente? Che ne so. Chi è? Piantanida, il signor Piantanida che gioca, il signor Caltritti. Sta scrivendo dei tweet. No, e quindi capito, però la verità è che siamo in un mondo di polemiche continue, le polemiche fra Juve e Fiorentina fra l'altro sono molto forti, e quindi il sospetto che questa cosa qui fosse essenzialmente provocatoria è un sospetto che c'è, siccome... Questo è il mondo che abbiamo, migliore dei mondi possibili. Che va al contrario, perché questa battuta, io sono d'accordo con te, questa battuta che presa in sé a me fa anche, appunto, mediamente diverte, nel contesto diventa un cerino nella benzina, Maurizio. Io penso che se cazzeggiamo noi, scusate se era dopo pranzo, sì. Se cazzeggiamo noi su Twitter va abbastanza bene, se lo fanno i tifosi anche i club possono sdrammatizzare, è vero, è tutto sempre troppo drammatico, ma in una settimana come questa, una pagina ufficiale che fa le battute che sembrano, forse sono un po' provocatorie, io me lo sarei risparmiato, sinceramente, cioè in questi giorni io avrei evitato, dopodiché, per carità, Twitter si sa che gioca degli scherzi particolare, lo dico da twittatore compulsivo, quindi so che tra parentesi oltre i 50 anni si corrono dei rischi, la Juve di anni ne ha già più di 100, quindi secondo me quando non sei più ragazzino con Twitter alla fine magari scivoli. Ma come mettiamo con i selfie? Ti fai anche le foto e poi le posti, Maurizio? Perché questa è l'ultimo selfie che ho fatto, e forse anche l'unico della mia vita, l'ho fatto sul set di una bellissima trasmissione televisiva che si chiama Tiki Taka, sì. E lunedì scorso abbiamo fatto questa cosa e devo dire che mi sono sentito diverso, insomma, da quel giorno la mia vita interiore è profondamente cambiata. No, ma più di 3.000 retweet. Più di 3.000 retweet. Abbiamo sfiorato il record della Generis, la presentatrice dell'Oscar. Sì. Qui c'è qualcuno che ci boicotta, allora ditelo, lo sentite questo? Questo suono lo sentite? Chi è? E non lo so, secondo me è Moggi. Signor Cruciani. Ci stanno intercettando. Poi, sai, tu parli con della gente, prima mi è arrivato un messaggio. Prima ho detto che nella percentuale della Juventus, cioè 50 che si legge 95, nel 5% c'è anche. Come ho detto, l'invasione delle cavallette, la pazzia di gruppo, la volontà di perdere lo scudetto, e poi c'è anche chi scrive nel 50% di Conte di perderlo c'è l'auspicata tra parentesi eventualità di venire pizzicato da un calciopoli 2 che riporti un po' di ordine in Lega, agenta spudoratamente gobbo, ha il salame sugli occhi o sei in malafede, in entrambi i casi cambia mestiere. Guarda, io posso dire una cosa, credo che a proposito di social network si debba giustamente usare i social network come un feedback importante, sì, degli umori, ma non si deve nemmeno sovraccaricarli, nel senso che in questi giorni se ne sta accorgendo ad esempio Fiorello, tristemente, no? Cioè comunque alla fine c'è sempre qualcuno che ti deve fare la morale o che ti deve fare un processo pubblico, che approfitta dell'anonimato per dire delle cose. Ti faccio un esempio, io ribadisco quello che ho detto e twittato mille volte, cioè appunto rispetto per le tragedie, per cui se vedo uno striscione contro Superga dico rispetto per le tragedie tutte, se vedo uno striscione sull'Aisel e invece poi faccio la stessa cosa, e invece poi ci sarà sempre quello che ti dice ma di quello si è parlato 20 minuti e di quell'altro si è parlato 18, ma quello l'hanno sanzionato con 25.000 euro e quell'altro hanno sanzionato, e di questo parlate sempre, non parlate mai. No, ma finché non usciamo da questa logica del voi contro noi, del Juventino che ce l'ha con la Fiorentina, del Torino, non ne usciamo. I tifosi si dividono in quelli a cui questi striscioni e queste cose fanno schifo e quelli a cui non fanno schifo, che addirittura li mettono. Questa è la vera distinzione. Se continuiamo a dividerci su ma a te ti hanno dato due giornali di squalifica, a te ti hanno chiuso la curva, a te ti hanno... Per carità, sono tutti temi di cui si deve discutere, perché perché sicuramente quest'anno con però non è quello il punto, hai ragione, ma non è quello il punto, ma il problema è che da questa, punto, da questa logica, da questa logica, Maurizio lo sa perfettamente, non usciremo mai. No, ne usciremo quando aumenterà in maniera inevitabile il numero delle persone a cui queste cose fanno schifo. La percentuale che dice Pierluigi è giusta, il problema è che siamo ancora distanti dalla percentuale schiacciante a favore di quelli che hanno un attacco di nausea. Finché si discute, finché si resta alla guerra di campanile, alla lettura dietrologica delle cose, al palio continuo, allora vale tutto, anche l'oltraggio al dolore, alla morte. In realtà occorrerebbe, credo, una bonifica ambientale, come succede alle volte in caso di disastri naturali, quando bisogna mandare le squadre a ripulire tutto. E il calcio ha bisogno di una bella bonifica, anche a costo di rimanere chiuso per un po'. Maurizio, parlami. Pronto? Sì, Diga. La bonifica ambientale è cominciata dal mio cellulare. Sono sentito la domanda. No, parlami di campo. Parlami di campo tra un bip e l'altro. Parlami di campo. Bip, parlami di campo. Questa Juventus che ammazza il campione. E la Juventus ha sempre campo. È una squadra con il massimo delle tacche. Quindi, restando alla metafora delle telecomunicazioni, la Juve è una squadra che non ha quasi mai i cali di tensione, prende sempre, nel senso che le prendono gli altri in questo caso, e anche se ultimamente qualche lieve pausa se l'è concessa, ieri si è visto, non ha spinto al massimo sull'acceleratore, ma le è bastato. È una squadra che ha fatto grossi carichi di lavoro tra gennaio e febbraio, adesso sta smaltendo tutto questo, ci sono alcuni giocatori di grande importanza, forse non al massimo della forma, per esempio Vidal, per esempio Pogba, ieri magari anche le due punte, però pensate cosa farebbe se fossero di nuovo tutti in forma, i numeri lo dicono, i risultati anche. È un campionato chiuso, ma temi ne rimangono molti, ad esempio l'Europa League, perché indubbiamente quella che era una manifestazione quasi da sopportare, quasi una scocciatura, adesso con l'incrocio tra Juve e Fiorentina e anche con il Napoli a Porto, non dimentichiamolo, diventa una cosa davvero molto importante, ed era ora che ce ne accorgessimo, non solo perché l'Europa League serve a mantenere onorevole il ranking europeo, ma perché effettivamente è una signora Coppa. Quando si chiamava Coppa UEFA la trattavamo tutti come si doveva, poi è diventata una robetta, non lo è affatto, tant'è che l'ha vinta il Chelsea. No, ma sono d'accordo, è interessantissimo. Un'ultima cosa al volo, la Roma ce la fa a Roma a tenere al secondo posto, perché quella di ieri è una botta bruttissima, partita che non meriti di perdere, vedi chiuderti definitivamente anche così nei sogni, nelle porte dello scudetto, perdi Strootman, oggi si dice addirittura per 9 mesi, che è una botta pazzesca. Ti aspetti un contraccolpo della Roma oppure no? No, io penso che manterrà comunque un vantaggio importante, che è poi anche quello degli scontri diretti, ha la partita da recuperare, e a Strootman un abbraccio grande, è stata una delle più belle novità di questo nostro campionato. 9 mesi sono tanti, sono il tempo di una gestazione, vorrà dire che alla fine nascerà un giocatore ancora più forte di prima, quindi forza veramente Strootman. Grazie Mao, ci mettiamo a pranzo quanto prima, Sì. Certo, cucina Pardo. No. Io porto le salse verdi, perché con i bolliti abbiamo detto la lingua in salsa verde, l'ho mangiata troppi bolliti, ma serve la salsa verde un po' piccante, né? Ti abbraccio Mao, grazie, ciao. Pier, stai lì, sì, ti abbiamo fatto venire fame? No, ho appena mangiato, guarda, però... è uno dei rarissimi che hai mangiato. Ho mangiato un riso in bianco che a me piace molto, fra l'altro. No, oggi ho mangiato veramente, forse neanche Seedorf quando giocava, ho mangiato riso in bianco, bresaola con un pezzettino di grana. Ma che vuoi, sei a dieta? Giuro. Non ti riconosco più. Guarda che il riso in bianco non fa dimagrire, purtroppo. Almeno magari fa dimagrire gli altri, a me no, a me fa ingrassare, io sono l'unico che ingrassa con il riso. È il momento della borsa, Sì, e poi gli ascoltatori, signori ascoltatori, 800 24 00 24, li aspettiamo. Tutti convocati. Cioè, mi dice che Diego della Valle deve restaurare Pompei, è una buona idea, secondo me. E se lui ce li mette, ottimo. Della Valle fategli comprare anche qualche giocatore, però lasciate stare. Magari anche qualcun altro, Della Valle ha fatto corse. Questo è Renzi. Questo è Pardo, ci sei? Sì, sono qui. Matteo Renzi, ieri sera da Fazio. Ma compri qualche giocatore alla Fiorentina. Arrivano conferme, purtroppo, alla gravità dell'infortunio di Strootman, perché ha parlato anche Van Gaal, CT dell'Olanda. Una notizia drammatica per Kevin. Posso immaginare che sia crollato tutto addosso in questi momenti. Ha dato un grande contributo alla qualificazione per il mondiale, è una perdita per noi, ma il peggio è per lui. Non andare al mondiale è un sogno infranto. È davvero un abbraccione a Strootman, gran giocatore, giocatore anche molto, a me molto simpatico nella sua, così, nella sua cattiveria agonistica. Certo, un infortunio così alla vigilia di un mondiale, pazzesco. Sta davvero in quel piccolo dramma che accompagna l'epilogo di ogni stagione sportiva, perché ieri è stato epilogo, secondo quanto abbiamo detto. Ha parlato oggi anche il direttore generale dell'Inter, Fassone. Squadra del futuro sarà equilibrata, ci saranno giovani e meno giovani. Zanetti, il presidente, gli ha detto che avrà sempre un posto con noi, ma adesso deve pensare a fornire il proprio contributo in campo alla squadra. Vabbè, questa di Zanetti mi sembra una questione abbastanza pallosa, non so a te. Sì. Io continuo a pensare che non è obbligatorio, no. Per una grandissima bandiera, nemmeno utilizzare il consenso popolare per la minima, insomma, per avere la pensione da club. Il club deve essere libero di decidere, non si inventano neanche i dirigenti. Dicevamo di Europa League, questa settimana in cui c'è l'Europa League, la chiuderemo dove? Ricordiamo dove, perché convochiamo tutti lì. Saremo a Napoli venerdì, con il Napoli di ritorno da Porto, dove giocherà una partita molto importante, ne saremo lì a commentarla. Dunque, direi, cominciamo a parlare con gli ascoltatori. Che poi ora? Prossima settimana a Bari, grande viaggio mercoledì prossimo, rotolando verso sud. Matteo, buongiorno. Buongiorno. A lei è di Pescara, le piace la Fiorentina? Sì. La bistecca, mi piace, ma tipo solo la mia città. Solo Pescara, integralista totale, va bene. No, dovrebbe essere la normalità. Beh, sì, insomma, fare la propria città. Comunque, dipende. Volevo dire una cosa relativamente agli striscioni negli stadi, anche ieri con gli antisemiti, eccetera. Ovviamente tutti hanno usato parole di condanna, penso anche voi, dando fondo a tutta la retorica del caso, penso. Però poi ci sono anche altri mali del calcio, mi sentite? Sì, la sentiamo. Che per esempio sono il calcio scommesse e queste cose qui, le partite combinate, e queste cose a un certo punto hanno avuto dei nomi e dei cognomi, e io vorrei che la stessa fermezza che si è usata verso per esempio gli ultras della Nocerina oppure verso i tifosi del Bologna la si usasse quando per esempio c'è un condannato definitivo della giustizia sportiva che si chiama Antonio Conte, che invece viene osannato in ogni dove. Su Sky addirittura gli fecero la Conte Cam quando è tornato, manco avesse sconfitto un tumore o non so cosa. In realtà era semplicemente un allenatore che ha omesso di denunciare una combine. Quindi gradirei anche voi che avete magari la possibilità ogni tanto di, soprattutto quando viene interpellato per quindi commentare. Quindi secondo lei cosa dobbiamo fare? Tu ogni volta che interviene Conte o che Conte parla, attenzione, questo è uno che... Io questo discorso sinceramente non lo capisco, e mi sembrano tutte queste storie di totale, tremenda retroguardia. Questa è la mia idea. Allora, in assoluto che i mali del calcio, il male del calcio non siano gli ultra, io sono d'accordissimo, sapete come la penso. Io penso che gli ultra sono un mondo complesso, come tutti i mondi complessi hanno sicuramente delle responsabilità quando si comportano male, ma ma ci sono anche dei valori di socializzazione, di, insomma non è un mondo da demonizzare o da criticare del tutto, semmai è un mondo da responsabilizzare. Sì, però discorsi come questo che cosa possono centrare? Cioè, voglio dire, osannate Conte quando è un condannato, giustizia sportiva, che cosa vuol dire questo? Cioè, qual è il senso di questo? Conte, senza rientrare nel merito, non ho capito. La famosa conferenza stampa di Conte, ce la ricordiamo, senza rientrare nel merito, sì. Insomma, lui disse che aveva patteggiato perché si era scagliato contro il fatto che doveva per forza patteggiare, che quindi era una sorta di ammissione di colpa perché, diciamo, da un punto di vista pratico era la soluzione più semplice, più logica per cavarsela rapidamente, insomma, visti i tempi della giustizia. Giusto o sbagliato che sia, ripeto, però questo è il punto di partenza. Sì, io andrei oltre. Colgo e recepisco la cosa sulla quale sono d'accordo. Soltanto gli ultra al mare del calcio, anzi. No, ma nessuno l'ha detto questo. In assoluto. Anche se sono per il tifo disorganizzato, io qui la penso come il signor Cruciani, e tu lo sai bene. Sono per il tifo totalmente disorganizzato, nel senso che ognuno va allo stadio per il tifo organizzato, ma nel quale c'è responsabilizzazione e chi sbaglia paga. Come in qualsiasi Poi, mondo. Su questi discorsi mi viene in mente sempre, se vogliamo farci una risata sopra Gianni Stecchino, no? Ti ricordi? Sì. Il male di Maliem è Ciaffi, però ce n'è uno ancora peggio, sai qual è? Quella cosa peggiore di tutte, asiccità. Franco Novara, buongiorno. Novara, Novara che ha vinto, Franco? Novara che ha vinto. No. Beh, c'è Franco? Sì, ci sono. Ah, c'è, eccolo lì, dica. Buongiorno, no, per la bonifica ambientale, come ha detto il suo collega, volevo fare i complimenti ai tifosi viola per la battuta, perché denota ancora la solita arroganza sabauda, e se il calcio, penso, continua a calare è anche grazie a squadre come la Juve. Solo questo. Non ho capito niente. Che cosa? Prego, ci spieghi. No, volevo fare complimenti ai tifosi viola per la battuta. Quale battuta? Dei quattro salti in padella. Ah, sì. Perché con i toscani è possibile competere per le battute. Sì. E la risposta dei quattro salti in padella per me è una cosa molto bella, perché denota ancora una volta l'arroganza sabauda della parte juventina. Ma no, ma non c'è arroganza sabauda, da una parte la Fiorentina, dall'altra mette quattro salti in padella. Per me non c'è arroganza da nessuna parte, poi se vogliamo leggere... No, l'arroganza è solo... Scusate. Dimmi, sì. Io sono tifoso interista e ho un debole per il Toro. Però, scusate, ma i juventini, mi dispiace, ma un fondo di DNA e arroganza ce l'hanno da sempre. Fino a Calciopoli non hanno ancora metabolizzato il tutto, quindi... Sì. Sì, no, comunque vabbè. Grazie anche a loro, che penso che la gente continuerà a disaffezionarsi al calcio. Mi sembra solo quello, non intervengo. No, va bene, ma grazie dello spazio. No, ma grazie a lei, anche se non so, va bene, l'arroganza sabauda, abbiamo detto questo. David Guetta è noto giornalista, noto tifoso viola, noto tutto qua, noto appassionato di quattro salti in padella di Fiorentina. Non sono i DJ, ricordiamolo, che è arrivato dopo di me. Ah no? No, è arrivato dopo una volta è successa una cosa bellissima. Sì? Mi hanno chiamato per chiedere un giudizio sul mercato a Fiorentina, ahimè tragico, di Corvino 2011. Uh-huh. Io ero nella stanza del bagno a casa. Perché stavi cantando? Come? E stavi cantando? No, erano le 23 e hanno messo la foto del DJ, che è magro, biondo, è un'altra cosa, è bellissimo. Fantastico. Tra l'altro lui, quello lì è un nome d'arte, lui si è ispirato a te, possiamo dirlo, no? Sì, esatto, lui ha capito che a Firenze avrebbe sfondato soltanto in quel modo, e quindi ha acchiappato un sacco di tifosi della Fiorentina, che sono un po' perplessi dopo questa sconfitta, perché quando perdi con la Juve, cioè tu sai che tanto vai lì e con la partita di campionato è quasi andata, però dopo ti brucia, perché alla fine potevi anche pareggiarla. Sì, ma Mattia, quella storia della Fiorentina ti ha dato fastidio? Da tifoso viola? La storia, scusa? Della battuta, del tweet juventino. No, ma figuriamoci, a Firenze si è fatto molto peggio. Mi rompe molto più le scatole tutto quello che è successo sugli spalti, per quanto riguarda il coro al nono minuto del primo tempo del tifosi della Juve, così come trovo indegni i cori dell'Aisella a Firenze. Quelle sono cose che scocciano. No, la battuta della Juve, diciamo che questa gli è venuta bene. Ad Andrea Agnelli sono venute altre molto peggio nel passato. Questa non è male come battuta. Diciamo non è originalissima, no. Però ci sta, insomma, ci sta. Ora giovedì c'è questa gara di andata, io c'ero già nell'89-90 quando la Fiorentina si giocò le possibilità di vincere la Coppa UEFA a Torino, perché pareggiò 3-1, Baggio si mangiò due gol e poi ci fu un errore di Landucci e un gol non regolare della Juve, e poi la partita di ritorno ad Avellino. Andranno in 3.000 credo a Torino, speriamo che non succeda nulla sugli spalti, perché siamo un po' la vetrina, sì. Non voglio farla troppo grossa, però siamo un po' la vetrina internazionale. Assolutamente, c'è una responsabilità ulteriore al di là del fatto che bisognerebbe comportarsi bene per il gusto di farlo. Ma la città, come, dacci un po' il polso, questo tweet come l'ha vissuto? No, come... allora, quello che è andata molto peggio secondo me nel campionato, mi pare 2011, no, lo scorso anno, 2012-2013, perché Andrea Agnelli fece un giro di campo guardando un po' tutto il tifo della Fiorentina, quasi a sfidare. Era il momento in cui si diceva che Conte, dove lo mettiamo, era squalificato, lo mettiamo in tribuna, può venire tranquillamente a Firenze. Quella è stata un po' una provocazione, però andò bene quella, figuriamoci. Ma i fiorentini sono capaci di spellarsi per una battuta, cioè... Spesso chi arriva da fuori non capisce perché i fiorentini si offendono l'uno con l'altro. Te, Pierre, sei un frequentatore di questa città, sì. Offendono la mamma e non se la prendono. Cioè, sì. Chiaramente se offende la mamma di qualcuno che arriva a Firenze, lui se la prende e sarà anche di brutto, ma figuriamoci, una battuta come quella di Agnelli ci sta. Qui ci sono battute sul 4-2, sulla mitraglietta di sì. Tevez e Pogba, che insomma sono durate ma mesi adesso. Ma quello che dico io è un po' di dialettica da questo punto di vista, sia Fiorentina quattro salti in padella, queste cose qui, insomma, non stiamo a demonizzare. Io l'ho trovata una battuta abbastanza, come hai detto Pardo prima, mediamente divertente. Un attimo di pazienza tutte e due, Pardo, David Guetta, Davide dalla provincia di Milano che è già lì, traffico e poi chiudiamo in bellezza. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. Convocati. Questo è facile, va messo a pezzo di carne abbastanza alto, sul mattone ardente con la legna ad ardere, e si cuoce a bistecca la Fiorentina al sangue, rigorosamente al sangue. Resta, la giriamo alla Juventus, così imparano a fare la Fiorentina. Senti Davide Guetta, io voglio chiederti ancora una cosa, la storia di Mario Gomez, ieri dal primo minuto... Non benissimo. Allora, toccato, anzi, 14 malino. Palloni, perché 14 palloni toccati, che sono un po' pochini. Un recupero dopo aver perso un pallone, un contrasto vincente a centrocampo, un salto fuori tempo, non in padella, ma sì. Fuori tempo quando c'è stato l'unico cross decente della Fiorentina fatto da Pasquale. Non, e quindi come contate di far gol alla Juventus? Vabbè che rientra Borja Valero, lo sappiamo, ma come contate di far gol alla Juventus? C'è anche un altro aspetto, che a furia di dire a Quadrato che è un grande giocatore, lui ci ha creduto davvero. Ah, io ci credo, te no. Ma però negli ultimi due mesi Quadrato, allora guardate la partita di ieri, è stato irritante Quadrato, non ha mai marcato Asamoah, che è diventato imprendibile sulla fascia sinistra, lasciando il povero Diakité che già ha dei piedi come ferri da stiro, sinceramente, in mezzo alla coppiata di sinistra della Juve. Allora con Quadrato così è durissima, la Fiorentina si è un po' avvitata su se stessa dopo l'infortunio di Pepito Rosso. Si diceva era poco concreta, ma era bella. Non è nemmeno più tanto carina, però santo cielo, è la Fiorentina, e quindi ci crediamo. Era buono il gol di Diakité? Allora, alla Fiorentina quest'anno è stato fatto di tutto, faccio questa premessa perché fra Napoli, Inter, veramente almeno 5-6 punti. Io devo dire la mia sensazione è che nel momento in cui De Ciglia ha colpito il pallone si fosse accorto in campo che il gioco era fermo. Non so se Pierre era lì, sì, non so se anche lui... perfettamente ha avuto sì, fermo. Era, di fatto secondo me non è un gol annullato, poi in realtà Moviola e contro Moviola dicono che non si sa, nel senso che forse il piede di Pogba lo tiene in gioco. Insomma, onestamente, appunto, la Fiorentina ha avuto altre situazioni più gravi quest'anno, nettamente più gravi. So che questo non assolve, anzi magari può diventare un ulteriore motivo, no? Cioè, sì. Se ti fregano, se ti rubano la macchina e poi ti rubano a casa, pure se perdi 5 euro ti arrabbi perché hai perso 5 euro dopo sì. Che ti hanno fregato il resto. Sì. Però insomma l'episodio di ieri non mi sembra onestamente. Non mi sembra una cosa sconvolgente. La cosa veramente antipatica di tutto quello che è successo negli ultimi tempi è l'atteggiamento gladiatorio, consentitemi questo termine, di Braschi, che vi posso assicurare a Firenze e nei dintorni di Firenze dove va. Ha sempre di confronto a Fiorentina delle parole molto dure, purtroppo si è messa a tu per tu, cose che non dovrebbe fare un designatore, perché la Fiorentina contro come tutte le altre società e la caduta di stile nella polemica fra Braschi e la Fiorentina la trovo la cosa più dannosa, perché in campo puoi sbagliare ma fuori dal campo hai tutto il tempo per decidere cosa dire, e quello che ha detto Braschi secondo me le settimane precedenti è pesantissimo. Sì, l'atteggiamento di Braschi non piace nemmeno a me, diciamo i giorni scorsi, David, perché va bene tutto, uno l'errore arbitrale lo accetta, io sono assolutamente convinto della buona fede, sono proprio un integralista della buona fede, anche a costo di sembrare uno scemo ingenuo, però la cosa insopportabile è quando si cerca di giustificare l'ingiustificabile. Bravo. Non si ha la forza di dire che sia sbagliato. E lo si fa per esempio quel referto arbitrale di Gervasoni su Borja Valero è un referto sbagliato. Alla luce di quello che abbiamo visto noi è una porcheria, ma anche perché se non ci spiegano altro rimane una porcheria, certo. E possiamo continuare a dirlo all'infinito, poi se arriva Braschi e fa il macellone, fa il ducetto, allora non sistema certo le cose in quella maniera, con quell'atteggiamento. David Guetta, grazie. Grazie. Volevo farti Ciao. Cantare, ma lo farò la prossima volta. Ci canti in versione anche non rap l'inno della Fiorentina, ti va? Oppure una cosa che arrivi al vento il labbro viola sui campi della sfida dell'onore. Basta così, ragazzi. Grande. Bene, molto bene. Qualità, personalità. No, ma lui è di Original One, è mica quell'altro biondino, no? Davide, provincia di Milano. Buongiorno. Grazie. Volevo parlare di Prandelli, sì. Di dichiarazione di Prandelli, ma consentitemi un'introduzione sui cori, sugli striscioni vergognosi. Io ho quasi 40 anni e ho fatto 10 anni di curva della Juve. Quando avevo 20 anni la potevo pensare diversamente, adesso che ne ho 40, grazie a Dio, ho cambiato un po' idea. Ma non si potrebbe veramente non parlare più di queste cose, completamente annullare gli striscioni, questi hanno detto questo, questi hanno scritto questo, perché se a quegli idioti senza cervello non si dà proprio più nessuna pubblicità, magari possono anche pensare che possiamo anche non farlo, perché tanto qua nessuno dice nulla. Sì, insomma, sul fatto che siamo abbastanza i tamburini di questi coglioni, è vero. Parliamo di Prandelli, però, via. Mi dica. Senta, io stimo Prandelli come uomo e come allenatore, però rimango un po' basito dalle dichiarazioni che sento, come la polemica con Conte. Io sono juventino, posso anche dare ragione a Conte, però Prandelli non può dichiarare che si sente svuotato per una piccola polemica così. O tipo un anno e mezzo fa, adesso non mi ricordo, che parlava della qualità della vita. Io non so se vi ricordate di questa polemica. Vi ricordate? Sì. Io no, ma sì, la qualità della vita, sì, nazionale. Che si era abbassata per non so quali ragioni. Sì, no, ma certe volte di questi discorsi vagamente a predicatore li fa, vabbè, non ci darei troppa importanza. Probabilmente è, sai cosa, Pierre? È un po' troppo tempo che è lontano dalla battaglia dialettica domenicale, diciamo così. Sì, poi appartiene a una categoria che è quella dei buonisti, sì. Che si confronta con quella degli antipatici cattivi, diciamo, sì. Quelli col mascellone in fuori. Sì. Sono due categorie dello spirito, sono due robe. Per me Prandelli complessivamente, se devo alzare o abbassare il pollice, io lo alzo convintamente, cioè penso che comunque abbia fatto, al di là dei meriti calcistici, delle cose molto importanti, di sensibilizzazione su tematiche importanti. Per me la giornata in Calabria sui campi confiscati all'Andrangheta è una giornata, è una medaglia. Aver portato la nazionale a Scampia secondo me è una medaglia, al di là del tweet di Balotelli. E insomma, sono tutti segni, sono tutta la campagna contro l'omofobia, sono tutte cose importanti da persona che vuole utilizzare la propria popolarità, la propria immagine per un fine alto, quindi io sono completamente dalla sua parte. Poi appunto si incarta sul codice etico perché è un casino applicarlo, oggettivamente è un casino e crea delle disparità di trattamento abbastanza evidenti e sicuramente alcune volte ha delle uscite che possono suonare antipatiche. Secondo me, noi l'abbiamo detto, su quella questione lì con Conte la Juve si poteva risolvere con del buon senso, ma certamente, nel senso che comunque certamente la collaborazione fra commissario tecnico e allenatore dei nazionali è qualcosa di molto importante. Mi attengo alle sue qualità da CT, secondo me ha fatto un eccellente lavoro. Ottimo, su sì. Tutto il resto avrei da dire, ma va bene, lo facciamo un'altra volta. Pier, chi c'hai? Chi è stasera? Abbiamo Ghirardi, abbiamo Parolo, abbiamo Marco Baldini, festa del Parma, grande tifoso viola, Marco Baldini con Mughini su Juve Fiorentina, abbiamo Paolo Liguori, abbiamo un sacco di roba che mentre tanto neanche mi ricordo, abbiamo sicuramente tanta roba su Napoli-Roma, sì. Abbiamo Francesca Barra con Sansa Caracciolo, Dalai, che abbiamo Chiellini, hai capito come sto, abbiamo Chiellini one to one collegato che ci sì. darà la sua posizione su tante cose, insomma è un uomo del giorno più che mai, sì. E poi tanto altro che talmente tanto che non me lo ricordo, però Pio e Amedeo, gli ultra dei VIP con il loro film, insomma tanta roba. Sì, fate in gestione di reso in bianco, capito? Sì, sentiamo sì, domani. Ho la memoria ormai ai minimi termini. Ciao. Sentiamo Domenico da Padova, è lì? Sì, pronto? C'è? Mi aspetta, sentiamo insieme il GR perché adesso non ho tempo. Grazie davvero, stia lì, eh. Tutti convocati. Che parte largo puntando Vezovic, alto velo di Calvarese, la palla per Palacio che di testa trova il gol in allungo, Rodrigo Palacio la sblocca lui con il 12° gol stagionale, l'Inter va avanti 1-0. Non dobbiamo guardare la classifica nel senso di guardare chi è un punto avanti o meno, noi bisogna, come ha detto all'inizio domanda, fare come, cioè pensare che queste 11 partite siano delle finali e in ogni gara, come abbiamo fatto anche a Roma, come abbiamo fatto oggi, bisogna pensare sempre di poter ottenere 3 punti. Alla fine dell'anno vedremo appunto poi quella conta, l'ultima partita che classifica avremo e su quella costruire bene il prossimo anno. Questo ovviamente Mazzarri dopo il gol di Palacio, botta di fortuna quel gol, un colpo di fortuna di cui l'Inter si è anche meritato, voglio dire, al di là della gara di ieri, che secondo me ha meritato di vincere con il Torino in una pericolosa e anche inspiegabile involuzione, perché prima del derby giocava un altro calcio molto più libero, molto più divertente, molto più spregiudicato, adesso mi sembra una squadra quasi paralizzata, non so da cosa. L'Inter però ieri ha meritato questa vittoria, è arrivata con un colpo di fortuna, tante altre volte era stata sfortunata l'Inter e in questa parola metto anche quello che ben sapete a proposito degli arbitri, dei rigori eccetera eccetera. Dico soltanto che se l'Inter arriva quarta mi sembra che Mazzarri avrebbe fatto il suo in quel caso. Emanuele Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, buongiorno a tutti. Volevo parlare, se era possibile, del discorso dei cori, l'istituzione e quant'altro con gli stadi, che poi dicono di assomigliare tanto, vogliono arrivare a diventare come gli stadi inglesi, quindi sì. Cercano di invitare anche le famiglie, i bambini negli stadi, e poi vedo un Tosel che mi dà 25.000 euro di multa per un striscione fatto nel derby Juve-Torino, quando volo penso al Toro. Cioè, allora io mi chiedo, se diamo 25.000 euro di multa a una società, ma non colpiamo le tra virgolette, per parlare del termine, colpiamo i personaggi che creano quelle striscioni, come possiamo cambiare determinate cose? Quello che mi chiedo io. Sì. Non lo so come si possono cambiare le cose. Mi limito ad osservare che con la testa dei tifosi, i biglietti numerati, i centri di sorveglianza attraverso le videocamere che sono presenti all'interno degli stadi, per cui in ogni momento è possibile vedere le facce di quelli che mettono gli striscioni, dove sono gli striscioni, e sarebbe possibile anche farli levare in tempo zero, o quasi, tutto questo sarebbe possibile, non viene fatto, e io mi domando perché non viene fatto, poi quanto al resto non lo so, sono discorsi. No, più che altro mi piacerebbe vedere qualche partita, anche per corollare per inciso, qualche partita del Napoli senza di mettere i tappi nelle orecchie. Sembra che si giochi a Baghdad tutte le volte durante i bombardamenti, quelle odiose insistenti bombe carta, vabbè, ma sono anche, insomma, mi sembrano un po' tutti i discorsi di retroguardia, anche se di malcostume, di inciviltà, di idiozia, di stupidità, eccetera eccetera, mi sembrano tutti i discorsi di retroguardia. Franco Brindisi, mi spiace che Domenico da Padova non mi abbia aspettato, l'avevo salutato prima del GR. Dove sei, Domenico? Torna. Franco, buongiorno. Buongiorno, volevo dire complimenti dottor Genta, comunque sì. Volevo dire, per quanto riguarda queste punizioni che si danno alle curve chiuse, sembra che non funzioni, perché continuano sempre a fare le stesse cose, a fare gli sfottò, a mettere delle cose che offendono. Secondo me la colpa è dei nostri politici che non sanno legiferare, e della federazione, i dirigenti che scaldano solo le poltrone. Basterebbe copiare l'Inghilterra, hanno sconfitto gli hooligans, vanno coi bambini, le famiglie intere negli stadi, senza protezione, senza niente. Io non capisco perché qua in Italia, io ho sentito in una trasmissione sportiva un deputato, non voglio fare il nome, che ha detto: se no, lo faccia, perché non lo vuole fare? Non lo so, perché. Sì, chi era? Io non l'ho sentito. Chi era? Cento, lui ha detto Cento. Paolo che, Cento, sì. Puoi fare delle leggi così, sì. È pericoloso, perché se capita qualche figlio di qualche persona importante, che si fa, si mette in galera, che si fa? No vabbè, ma questo, allora, nel nostro paese questo argomento, che annoia parecchio, viene utilizzato comunque anche come per scopi di pura demagogia politica, e questo lo sappiamo perfettamente. L'unica cosa che veramente non sopporto è il discorso delle famiglie che tornano allo stadio, degli stadi con i bambini, perché non tornano i bambini agli stadi. E tutte le volte mi tocca ricordare che quando ero bambino, ormai molti anni fa, anni 70-80, andare allo stadio era davvero pericoloso e il clima era molto peggiore rispetto a quello che c'è adesso. Gli idioti erano sempre a piede libero e le mamme degli idioti erano incinta di già, e quindi, insomma, non voglio dire, vabbè, rassegniamoci a questo, non rassegniamoci, perché all'inciviltà non ci si può rassegnare, però cerchiamo di essere onesti almeno da questo punto di vista. È tornato Domenico, dov'era? Dov'era andato? Pronto? Eccomi. Ah, buongiorno, grazie a voi per lo spazio e un saluto a tutti voi. Grazie, volevo, Domenico, dica. Io volevo semplicemente rispondere a quei tifosi che parlano male di queste battute, no? Io capisco gli striscioni che inneggiano alla violenza, e vabbè, quelli sono da condannare, però per la miseria. Ma sulle battute, la bistecca, la chianina, la fiorentina, ma divertiamoci, anche perché sennò il calcio diventa antipatico, tutto qui. Sì, guardi, non la penso in modo molto diverso da lei, cioè nel senso che in un mondo normale semplicemente questa battuta fa sorridere, non fa ridere, fa sorridere, e magari dall'altra parte poteva uscire una battuta come è uscita quella sui quattro salti in padella dalle pagine dei tifosi, cose non ufficiali, eccetera eccetera, ma semplicemente una cosa, insomma, buttata lì. Si può evitare? Sì, magari sì, ma perché? Cioè, perché non si possono dire queste cose? Perché anche tra le società non ci possono essere battute di questo tipo, invece di delle solite liti con la bava alla bocca? Questo non lo so. Allora, prima di Guido, dalla provincia di Grosseto, 800240024, vi ricordo il numero, vi faccio sentire invece la partenza del Milan verso il viaggio della speranza a Madrid. Questa mattina, prima di salire sul volo, Galliani. È certamente un'impresa difficile, ma quando qualche anno fa si fece 2-2 col Bayern Monaco e andammo a vincere poi a Monaco con fra l'altro un gol di Seedorf oltre che di Pippo, se ricordo bene era una partita altrettanto difficile, quindi ci proviamo sicuro. Sì, peccato che bisognerebbe aggiungere che il Milan era un altro, non era mica questo. Guido, provincia di Grosseto, stavamo dicendo, dica. Pronto? Pronto, buongiorno. Allora, complimenti per la trasmissione. Io semplicemente volevo dire che quando parli sempre retroguardia, però la storia, gli storici insegnano che ha le radici nel passato. Quindi oggi questo ponte che attacca Prandelli, attacca Capello, attacca questo, attacca quello, farebbe bene a ricordare che insomma il suo passato non è tanto immacolato. Punto, non voglio aggiungere altro. No, può anche aggiungerlo, non c'è problema. Cioè, il suo passato non è tanto immacolato, dunque dovrebbe stare zitto? Chievo, quindi figuriamoci. Come? Dico complimenti, auguri al Milan per questa sera, magari riuscisse a domani fare l'impresa. Sì. Ma io sono tifoso del Chievo, quindi sono sempre parteggiato da parte dei più deboli. Ma sì, per capirci. Va bene, dalla parte dei più deboli, il Chievo è una squadra che fa il suo campionato, lotta per la salvezza, eccetera, eccetera. Poi per il resto continuo a domandarmi, Conte cosa dovrebbe fare? Stare zitto oppure portare, che ne so, un cartello al collo tutte le volte che va a parlare con la stampa? Non, è questo che non riesco a capire. Stefano, Roma. Buonasera. Lei da che parte sta? Romanista? Pronto? Pronto? Mi sente? Non lo so, proviamoci. Io la sento benissimo. Fantastico, dica. Niente, io chiamavo per la simulazione in campo da parte di miliardari che dicono di praticare uno sport che è il calcio. Secondo me la munizione non serve a nulla, andrebbero squalificati per 2 mesi e dovrebbero essere espulsi all'istante. Forse il calcio tornerebbe ad essere uno sport. Perché prima invece, quando era uno sport, non simulava nessuno? No, purtroppo fa parte della natura umana fingere, in questo caso rubare, perché per me simulare in una partita di calcio vuol dire rubare. Sì. E questo è il mio pensiero, probabilmente. No, ma il suo pensiero, no, non sbaglia. Secondo me 2 mesi di squalifica, l'espulsione immediata, eccetera, eccetera, non lo so se già l'ammonizione mi sembra un discreto deterrente. Quello che dico in quel contesto, lei dice così il calcio tornerebbe ad essere uno sport, e io le domando perché prima non era così. Cioè, è semplicemente questo. Poi ci sono quelli che hanno questo brutto vizio, ci sono purtroppo, ed è questa la cosa peggiore, gli allenatori magari delle giovanili che ti insegnano addirittura proditoriamente a fare il furbetto, e quindi così è. Cioè, quanto al tipo di sanzione, mi sembra che già la possibilità di una ammonizione dovrebbe essere un deterrente sufficiente. Perché mi scrivono un'agenzia, allora, applausi a Daron Hunt, non capita tutti i giorni di poter, la sto leggendo, di poter applaudire il bel gesto di un calciatore, ma nel caso dell'attaccante del Werder Bremen, che fa tirare un bel sospiro di sollievo. Durante la gara vinta in casa del Norimberga, il capitano del Werder si vede concedere un calcio di rigore dall'arbitro della partita, signor, Graffe. Dopo un contatto con il difensore avversario, l'argentino Pinola. Peccato che il contatto non ci fosse stato, ma poco male. È lo stesso Hunt ad andare dall'arbitro e spiegargli che il rigore non doveva essere assegnato. Graf, un po' stupito, si fa dare la palla e la consegna a Norimberga. Una stretta di mano ad Hunt e si ricomincia a giocare. Non è poi così difficile essere onesti. Questo è il testo di una agenzia. Sì, non è poi così difficile essere onesti. Sta vincendo 2-0. Insomma, non va bene. Se vogliamo fare i buonisti a tutti i costi, allora diciamolo. Bravo Hunt, certamente bravo. Insomma, qualcosa che invece andrebbe insegnato ai ragazzini, bla bla bla bla bla, tutte queste cose qui, che poi tutti quanti noi sappiamo che se lo fa capitano della nostra squadra, magari sei sullo 0-0, magari non lo fai più uscire di casa, sbagliando, sbagliamo noi, non lo fai più uscire di casa per un mese. Sentiamo domani Franco Piantanelli, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, tutti convocati domani dopo il GR delle 14.